Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Voi insegnate ai nostri figli le parole del vostro Dio. Crescete e moltiplicatevi. Ma sembra che queste parole non siano per gli indiani. Perché che razza d'uomo prenderebbe moglie e farebbe figli se non può sfamarli? Non un indiano, non un Lakota, non un Arikara, non un Crow. Voi vorreste che noi ci castrassimo e che la nostra razza finisse qui, su un pezzo di terra su cui niente può vivere, e questo non accadrà mai. Questo è il discorso di Sitting Bull, toro seduto. Chissà, forse degli echi lontani con il complotto della teoria gender. Vorreste che i nostri figli fossero castrati. Non so quale sia il nesso per cui toro seduto questa mattina sta rimbalzando nel mio immaginario legato al primo giorno di scuola. Forse che perché fra i tanti messaggi che le autorità hanno dato ai ragazzi che oggi ritornano sui banchi per la prima volta tra oggi e domani, c'è quello del ministro Giannini che ha detto non abbiate paura, e quindi è in sintonia, c'è quello del premier Renzi, daremo più soldi per l'edilizia scolastica, costruiremo scuole più robuste che non crolleranno sulla testa, ma c'è quello che mi ha colpito questa mattina al punto tale che non ho potuto fare a meno che ispirare la puntata di oggi a una riflessione su questa frase di Gildo De Angelis, che è il dirigente scolastico regionale del Lazio, che ha lanciato anche lui un suo messaggio, una lettera articolata ai 741.633 ragazzi del Lazio, leggo oggi nella cronaca di Roma del Corriere della Sera, dove ha detto un messaggio di tono ben diverso da decifrare. Siate guerrieri come toro seduto. E ha citato toro seduto. Toro seduto ce lo ricordiamo perché era uno degli eroi, anzi anti-eroi, perché nei film della mia giovinezza i Pelle Rosse erano tanto cattivi. Comunque nel 1876 fu quello che detto una botta sulle palle terribile al generale Custer a Little Bighorn, facendo un grande massacro. Erano stati, devo dire, i soldati ad attaccare Pelle Rossa, Maysook insieme ai Cheyenne, agli Arapaho e altre tribù fecero un contrattacco e insomma fecero una grande strage, fu il massacro di Little Bighorn. Ci sono quei film che li ricordo la mia giovinezza. Ma perché toro seduto e perché i ragazzi devono sentirsi dei guerrieri? Il dirigente scolastico dice perché il vero guerriero non è quello che combatte, i Sioux hanno sempre combattuto tantissimo, lo so bene, erano anche i nemici di Navajos, di Tex Willer, quindi è chiaro, erano indiani comunque che amavano fare la guerra e difendevano anche la loro terra. Ma dice il dirigente scolastico, è quello che si adopera per il bene degli altri, il suo compito è occuparsi degli anziani, degli indifesi, non provvedere tanto a se stesso quanto ai bambini e agli altri. Insomma, il guerriero Sioux è un boy scout, è questo il messaggio? Beh, voi come lo ricordate il primo giorno di scuola? Eravate ispirati da questi sentimenti contrastanti, dover essere buoni, occuparsi degli altri e la voglia comunque di combattere, di sentirsi guerrieri? Ricordate il vostro primo giorno di scuola, qualunque esso sia, il primo in assoluto, quello della vostra prima elementare o quello dei vari giorni, primi giorni del liceo? Comunque sia, c'era sempre dietro una guerra scolastica. Qual è la guerra individuale e collettiva che ognuno compie a scuola? Che non è certo quella dei sindacati, quella degli insegnanti. Questo è il primo anno della buona scuola, l'anno di passaggio, l'anno di collaudo, ma è qualcosa che riguarda gli studenti. Gli studenti si siedono nei banchi di scuola e iniziano una guerra. Se noi vogliamo dare fede e giocare sulla metafora del dirigente Gildo De Angelis, questa mattina vorremmo sapere qual è la guerra scolastica che avete iniziato voi ogni anno il primo giorno di scuola. 800 24 00 24. Queste sono delle testimonianze di guerra, dei reportage di guerra, impropri, clandestini, proibitissimi sono i ragazzi che, dotati di smartphone, riprendono i momenti epici delle loro battaglie scolastiche. Urla, casino, disastro, e l'insegnante poverina che cerca di riportare l'ordine, di riportare nei termini tradizionali di un rapporto docente e alunni quello che è il clima scolastico. 800 24 00 24, siate guerrieri, dicono gli studenti laziali. In che maniera voi siete stati guerrieri a scuola? Andavamo a scuola, le maestre, i professori, tutti ciò che davano l'esempio a noi, gli dovevamo dare retta, e la mattina dovevamo sapere lezioni. E c'era un certo maestro Pochetti, de Palombara, che bastava per davvero. Ci diceva: chi non sa la lezione venga a prendere le batteccate. Se ci andavi te ne dava 10, se non ci andavi, quelli che non ci erano andati, ci dava tutti la lezione. Se non la sapevi, anziché 10, ne piavi 20. Non è come oggi che si portavano i taschini pieni di libri, che i taschini ricoscavano un sacco di soldi, 20, 30 libri, i colori così lunghi raccoppiati. A me i colori non mi sono stati mai comprati da mia madre. Poverino questo signore a cui non hanno comperato mai i colori. Io il primo giorno di scuola soffrivo, perché a me mi portano i colori riattemperati di misure diverse, qualità diverse, che avevo usato durante l'estate per risparmiare, e gli altri hanno tutti astucci nuovi con i colori di zecca, tutti lunghi nella stessa maniera, tutti con la punta fatta, tutti della stessa qualità. Quindi sembrava una sorta di arcobaleno meraviglioso l'astuccio degli altri, e il mio era tutte queste matitine stortignacole, un po' in un modo, un po' in un altro, una più lunga, una più corta. Ricordiamo i momenti fatidici in cui possiamo, se cerchiamo similitudini con il messaggio agli studenti romani, individuare qualcosa che assomiglia a una battaglia, al tempo in cui gli insegnanti potevano picchiare gli alunni. Questo signore racconta e ricorda le bacchettate venivano inferte ai ragazzi, ma sono momenti arcaici, momenti lontani, momenti totalmente innaturali. Oggi un insegnante che mettesse soltanto uno sguardo che non sia carezzevole e comprensivo sul capino indifeso del proprio alunno sarebbe portato in piazza ricoperto di penne e di pece e condotto nelle più profonde latebre delle carceri italiane. E allora qual è la battaglia? Qual è la guerra? Perché devono sentirsi come dei guerrieri? E perché evocare Toro Seduto? 800 24 00 24, raccontatemi se avete mai vissuto dei momenti di battaglia in cui vi siete sentiti guerrieri nel primo giorno di scuola o nei giorni a venire. E non soltanto negli anni in cui a scuola si era guerrieri, perché ci si andava con le chiavi inglesi, con le bottiglie Molotov, con i bastoni nascosti sotto la giacca, perché veramente era una guerra, ma erano anni che sono passati. Alle medie, seppure fossi grande e grosso, hanno cominciato a prendermi di mira, non miei compagni di classe, ma comunque persone della scuola. Mi hanno sempre vessato, preso in giro e minacciato anche, però poi la cosa, bene o male, è finita lì, perché sono finite le medie. Io comunque ho cominciato a frequentare arti marziali sia per avere autocontrollo sia per difesa. La cosa comunque non è migliorata quando sono andato alle superiori, perché per i primi 3 anni delle superiori ho sempre subito vessazioni da parte dei miei compagni. Ecco, per una certa categoria di studenti è una guerra, perché chi geneticamente, fisiologicamente, perché molte volte è anche una diversità che ci si legge addosso, sia più timidi, più taciturni, meno inclini a socializzare, si diventa vittima dei bulli. Allora sì che è una guerra. Allora i bulli veramente sono visti come le giacche blu, come gli invasori, come i colonizzatori, come quelli che ci cacciano dalle nostre terre, dai nostri territori, territori di pensiero, di libertà o di prigionia delle proprie stereotipie. Comunque sia, ognuno ha diritto di vivere nei propri territori, nelle proprie riserve, e chi è vittima dei bulli naturalmente è il primo a sentirsi un guerriero sconfitto. Perché? Perché sopraffatto dalla forza numerica degli altri, il branco è sempre più forte. 800 24 00 24, quali sono le guerre che devono affrontare gli studenti sul banco di scuola? Rosanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo intervenire proprio riguardo alle guerre che ci sono in atto in questo momento. Ci sono delle guerre in atto nelle scuole italiane? Senta, io ho 56 anni. In questo momento noi siamo a conoscenza, come forse poche persone, della guerra che è in atto contro l'ideologia gender che vuole essere messa all'interno delle scuole. Ne abbiamo fatto una trasmissione qualche tempo fa, abbiamo capito che è una solenne cazzata. Comunque mi dica. Ecco, no, allora io quello che... Magari lei ci fa cambiare idea. No, io la trasmissione sua non l'ho sentita. Quello che volevo chiedere io è come mai a livello nazionale, nelle TV e nelle radio, soprattutto nelle TV, non se ne parla. I genitori stanno mandando a scuola dei ragazzi, bambini d'asilo, prima elementare e così via, che si troveranno davanti a uno sfacelo che non sapranno più... Non mi spiega meglio, Rosanna, siccome io sono molto aperto alle opinioni di tutti... Che non sapranno più qual è la loro vera identità... Ma dove l'ha sentita dire questa cosa? Perché io ho cercato con strumenti razionali e con informazione spiegare che non è assolutamente vero, esiste questa sorta, di cosa leggendaria che le scuole vorrebbero infinocchiare i ragazzi. No, guardi, se lei va ad informarsi. Ma dove si informa? Provi ad informarsi ad esempio sul sito di Cristiani per la Nazione. Vabbè, quelli sono dei malati, sono dei fissati in questo. Mattina mi ha scritto uno, dice il prete a scuola, dice ragazzi attenzione, vi faranno mettere la gonna ai maschi come bambine e vi diranno che bisogna essere tutti. Ma io credo che sia molto più pericoloso quello che sta facendo. Ma signora, guardi, onestamente, vediamo un po', io non è che voglio capire. Chi è secondo lei che ha interesse ad annullare il genere? Non ci sono più né maschi né femmine, ma qualcosa di indistinto. Ma sicuramente qualcosa al di sopra, qualcosa... Una lobby di gay? Ma una lobby, adesso io non so dire se di gay o altro, ma comunque un progetto a lunga durata, diciamo. Ma qual è lo scopo? Lo scopo di infinocchiare il mondo? Lo scopo è annientare le persone, creare una popolazione di persone che non avranno più nemmeno un'identità. Ma cosa fanno? Scusa, alla fine taglieranno il pistolino ai bambini? E... No, ma verranno cresciuti senza identità. Cioè, se noi altri andiamo alla parola che dice, la parola di Dio dice, poi l'uomo Dio creò l'uomo. Ma come si inizia questo? Facendo mettere la gonna ai bambini, ad esempio? Ma potrebbe essere questo? No, lo sa perché mi preoccupo. Mi preoccupo perché questa idea. Fin da piccoli. I primi, a lanciare questa crociata contro la congiura del gender, che il giorno che vedrò delle persone che mi diranno io la tessera sono della setta del gender, è vero, vogliamo mischiare tutti, potrò essere vero, ma figura non l'ho visti, sono proprio i preti in realtà hanno avuto un imprinting di tipo gender, perché sono andati a una scuola che si chiama seminario in cui gli uomini gli mettono la gonna, in cui le donne non esistono, e quindi allora Nicoletti, io le dico subito, io non sono cattolica, sono cristiana appunto e basta. Cioè, la mia vita è fondata sul principio della parola di Dio. E le posso dire che anche io assolutamente non sono d'accordo con i preti, perché se andiamo a vedere... Però lei teme molto, la vera battaglia quale sarà allora? Di rivendicare la propria mascolinità o femminilità quando verranno gli insegnanti che appartengono alla setta gender e diranno tu bambino metti la gonna e tu bambina fatti crescere basta. Ci deve essere all'interno delle famiglie, cioè le famiglie devono crescere i figli come maschio e come femmina. Quello ma che tantissimi padri che vanno a cercare i trans la sera per strada. Purtroppo anche quello. Però, si risolve questo problema? Attraverso una, come dire, un'educazione. Come si rieduca una persona che è, diciamo, entrata in questa sorta di confusione mentale? Si fa una scuola di virilità per gli uomini e femminilità per le donne? Credo che il fondamento di tutto sia ritornare sui principi di Dio, cosa che manca totalmente, cioè sta mancando totalmente nelle famiglie, nelle scuole. Vabbè, adesso abbiamo capito. Prendo atto e mi segno questa cosa e approfondirò e penserò. Marcella. Sì. Buongiorno. Pronto? Parliamo di guerra, non solo sui gender, perché so che sono i nemici buongiorno. Per tante persone, ma mi fa un po' sorridere questa cosa. Marcella, buongiorno. Vediamo quale altra guerra c'è. No, io non ho nessuna guerra. Devo dire che oggi le scuole sono meravigliose rispetto a quelle che ho fatto io tanti anni fa. Perché lei ha parlato di bacchettate che davano, almeno c'era qualcuno che parlava di bacchettate. Sì, anch'io le ho subite le bacchettate. Andavo in una scuola rurale. Io non le ho subite le bacchettate, però devo dire che ci sono delle punizioni e delle ferite morali che ci si porta dietro nel cuore per tutta la vita. Faccio un esempio di quelle che ha subito lei. Ecco, per esempio, mi aveva la mia maestra divisa da mia sorella gemella nel banco. per una stupidata, perché chiacchieravamo, perché abbiamo detto una parola. Lei ancora soffre per questa cosa dopo quanti anni? Dopo 50 anni, insomma. E come fu il momento che divise? Perché vostra madre aveva detto le figlie voglio che stanno nello stesso banco, no? E... No, allora non c'era questa voglia qui di parlare con i professori, con i maestri. E come mai stavate assieme però? Qualcuno vi aveva messo assieme? Qualcuno vi aveva messo assieme nello stesso banco? Non sento più niente. Cioè prima che vi dividesse la maestra cattiva, stavate assieme nello stesso banco? Sì, eravamo assieme, ma sempre con lei, abbiamo fatto fino alla terza elementare, poi in terza elementare... Vi ha diviso? Ci ha diviso perché stavamo chiacchierando, beh, molto grande. E da questo ha avuto un trauma per tutta la vita? Sì, perché io amavo mia sorella. Vabbè, mica l'hanno ammazzata, l'hanno messa sul banco vicino. No, l'ha messa, l'ha bocciata, non lo so. L'ha bocciata, era... un pochino, forse aveva bisogno di studiare un pochino di più magari, no? Ma può darsi, però insomma... Vabbè, non voglio affondare le zanne nel suo dolore, che capisco è profondo e sedimentato. Grazie della testimonianza. Giorgio. Buongiorno, complimenti per il vostro programma. Io la guerra non la intendo come una guerra come comunemente si pensa, violenza e quant'altro. Dico semplicemente che lo studente oggi, a differenza della mia scuola che ho 55 anni oggi, ha dei metodi, delle risorse per migliorare la propria preparazione, la propria cultura, che ovviamente è lodevole. Allora la guerra che deve fare lo studente con se stesso per migliorarsi, perché migliorarsi lo studente nel senso... Si va da una cosa pratica e poi devo chiedere, non teorie, non qua, è inutile teorizzare... Lo studente quando va a scuola deve sapere che quello è il suo lavoro per questi anni, non deve giocare a scuola. L'insegnante deve sapere che tra i pulcini che iniziano la scuola ha il falegname e l'idraulico, ma anche l'ingegnere, il Presidente della Repubblica, ma non sa qual è. La guerra è per gli studenti, per migliorare la nazione, e per l'insegnante... Però già si vede le banchi di scuola, quello carino, quello con la cravattina, la giacchina, tutto pulito, con i capelli ben pettinati, che non fa copiare gli esercizi agli altri, quello che probabilmente diventerà qualcuno potente. Ci fermiamo un istante, tra poco. Noi siamo con l'Italia che lavora. Siamo dalla parte di chi mette passione in ogni cosa. Siamo con chi pensa al presente, guardando al futuro. Siamo G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, presente in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, outsourcing, consulenza HR. Scopri in che modo possiamo aiutare aziende e candidati su ggroup.com. G-Group, your job, our work. Sei un'azienda e vuoi sbaragliare le aziende concorrenti? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it e prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai i tuoi nuovi agenti e batterai la concorrenza. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. Pronti al decollo? Roger. Flusso di fatturazione on, CRM, DDT, DMS attivati. F24 inviato, controllo di gestione business intelligence inseriti. IRV via libera, motori su, decollo! La tua azienda fatica a decollare? Allianz Enterprise è il software gestionale di ultima generazione che integra flessibilità, adattabilità e semplicità d'uso con il massimo del supporto. Con Allianz Enterprise la tua impresa prende il volo. Semplifica la gestione di impresa con Team System. www.teamsystem.com. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Qui in Volkswagen vi siete inventati la Polo Cross. Bellissima, più alta, maggiore visibilità, perfetto. Ma in più, protezioni sottoscocca, protezioni laterali, protezioni posteriori. Troppe protezioni, eliminiamole. Chi compra Polo Cross vuole l'avventura. Scopri nuova Polo Cross, tua anche con finanziamento TAN 0 TAEG 2.18, anche sabato 19 e domenica 20. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Volkswagen.it. A tutti gli automobilisti in ascolto, buon viaggio da Linear. Buon viaggio a Gaia da Bologna, che è passata in classe 2. E se passa a Linear può risparmiare fino al 40% sulla sua polizza auto. E buon viaggio a te. Con Linear ti assicuri la libertà dell'online e la solidità del gruppo Unipol. Scopri quanto puoi risparmiare su linear.it. Linear, assicuriamo la tua libertà. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo su linear.it. Risparmio medio calcolato sul libretto rosso 4 ruote 2014 profilo 5 Bologna. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo, gli ascoltatori di Radio 24. Atmosfera ancora molto instabile fino alla fine di oggi al centro-nord, con alta probabilità di piogge e rovesci, anche qualche temporale, soprattutto sulle regioni di nord-est, sul Levante Ligure, sulle regioni del medio-alto Tirreno. Però è anche vero che col passare delle ore ci attendiamo anche qualche parziale schiarita e finalmente per domani prevediamo un netto miglioramento in tutte le regioni centro-settentrionali. Situazione del tutto diversa al sud, dove non solo il tempo già al momento risulta bello, con solo qualche nuvola qua e là, ma le temperature stanno raggiungendo valori elevati anche oltre i 30 gradi. Ebbene, nel corso della settimana, non solo nelle regioni meridionali, ma anche in quelle centrali, temperature in netto aumento, colpo di coda dell'estate, torneremo sopra i 30 e al sud sfioreremo anche i 35. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Facciamo 1440 volte al giorno. Alla Welcome Italia siamo fatti così. Diamo sempre il massimo per fornire i migliori servizi di telecomunicazione. Così anche oggi abbiamo controllato una volta al minuto la stabilità delle linee di ogni nostro singolo cliente. E nel frattempo abbiamo risposto al 97% delle chiamate in tre squilli, perché il tempo dei nostri clienti è prezioso. Fidati, possiamo farlo anche per te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Vuoi far crescere la tua azienda? Trasforma le informazioni in valore per il tuo business. Computer Gross e la sua rete di business partner IBM certificati in area Analytics hanno la risposta. Analisi facile. IBM Watson Analytics e IBM Cognos Express a tasso zero. Vai su analisifacile.it, trovi il rivenditore più vicino e una prova gratuita. Pubblicità, finanziamento a 12 mesi in 4 rate trimestrali anticipate senza interessi, TAEG 0%. Offerta soggetta ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari SPA. Scade il 39/2015. Fogli informativi presso i rivenditori autorizzati. Johnson & Johnson? Sì. SGT Corriere Espresso, un pacco per lei. Grazie. Total Erg? Sì. SGT Corriere Espresso, una consegna per lei. Grazie. Adecco, Findomestic, Esprinet, Generali? Sì. SGT Corriere Espresso, una consegna per voi. Grazie. Grazie a tutti i nostri clienti. Banca Montepaschi Siena, Laboratoire Boiron, Geodis Logistics. Noi di SGT, oggi siamo uno dei più grandi corrieri espresso nazionali e continueremo ad esserlo. SGT, consegniamo fiducia. SGT.it. Quando fai la spesa, trovi sempre quello che desideri? Scopri i prodotti Vivi Verde Coop, alimenti biologici buoni, sani e genuini, che rispettano te e l'ambiente, e prodotti ecologici realizzati con criteri sostenibili. La Coop sei tu. Quando pensi al dentista, a cosa pensi? Ah, no! Ma no, dai! Pensa a un amico! Sì, Amico Dentista. Ti sa ascoltare, non ride delle tue paure, ti mette i denti su impianti anche in 24 ore e sempre al giusto prezzo. Scommettiamo, dottor Pedone? Certo, scommessa già vinta, da 10 anni. 800 088 315. 800 088 315. Amicodentista.com. Riscaldamento globale e alimentazione. Quali scenari per il futuro? Radio 24 e Edison presentano la conferenza Global Warming and the World's Food Supply, parte del programma Edison Open for Expo. Relatore d'eccezione, l'economista Paul Allan David. Venerdì 18 settembre alle 11, partecipa all'evento a Palazzo Edison in Foro Bonaparte 31 a Milano o seguilo in live streaming su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. €5 in cambio di giochi erotici nei bagni della scuola con uno o più compagni di classe. Tutto per raccogliere i soldi per comprare l'iPod o più semplicemente per la ricarica del cellulare. E poi ancora fotografie senza vestiti o video pornografici pubblicati su internet in una sorta di book online dove tutti, ragazzi e ragazze, possono scegliere con chi avere il prossimo rapporto. Alcuni ragazzi ci hanno segnalato questo, io lo chiamo book elettronico, book tecnologico, nel quale troviamo che cosa? Il nome della ragazza, che cosa è disposta a fare e in cambio di cosa. Ragazze dai 15 ai 17 anni, appuntamenti via SMS, incontri veloci nei bagni della scuola, sesso. Parliamo di guerre regali. Scolastiche, partendo dall'esempio, lo spunto del direttore regionale scolastico del Lazio, ha detto siate guerrieri come toro seduto, e stiamo raccogliendo testimonianze di quello quali siano le battaglie che debbano intraprendere, nelle quali si trovino gli studenti, nella scuola contemporanea ma anche passata. Mi sono arrivati molti messaggi riguardo la signora che ha telefonato prima sul complotto del gender. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, sei un povero cretino, come ti permetti di dare dei malati ai cristiani semplicemente che non la pensano come te? Vergognati, grande esempio di democrazia il tuo. Ma lezioni di questo, secondo me, sì, se volete date, ma lasciano il tempo che trovano. Reputo delle persone che debbano curarsi i cristiani che hanno l'ossessione di questo complotto del gender, che non sta in piedi, non c'è, non esiste, è una forzatura, è pura propaganda, è una cosa messa in giro non so per quale ragione, che darebbe l'idea che c'è un complotto per livellare il genere nel mondo in cui ci siano soltanto persone dal sesso incerto. Ma ragionate un attimo, ammesso e non concesso che possa esistere una sorta di lobby gay che voglia far diventare tutti come loro, ma quale sarebbe lo scopo? Quale gay vorrebbe che il mondo fosse fatto soltanto di gay, senza uomini o senza donne da avere come comunque punto di riferimento emotivo ed erotico? Nicoletti, beata ignoranza sul gender. Beh, saranno stati confortati questi ascoltatori da questo reportage sul buco elettronico e sulla possibilità che hanno gli studenti di avere un database di tutte le loro compagne di scuola disposte a prostituirsi. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Parliamo delle sue guerre. La mia guerra è iniziata molto presto, perché io ho fatto la primina a 5 anni, sì, dalle suore. Addio. È difficile. Purtroppo. Lo so. Purtroppo. Allora, ma sono scelte fatte in buona fede. Il genitore pensa, le suorine sono tanto buone, tanto carine, sì, tanto gentili. Sì, anche perché c'era mia zia che andava lì a ricamare tutto. Andava lì, ricamava, era amica delle suore. Infatti, e non sanno cosa accade quando si lasciano i bambini alle suore. L'ambiente dice è buono. E invece? Io scrivo di Mancina, passava questa foca nera. Perché meglio di una foca? No, abbiamo rispetto per l'abito. È una signora corpulenta, che non è un limite quello. No, io rispetto la foca, non rispetto la suora. Credo. E cosa le faceva? Passava e di nascosto tirava fuori la bacchetta sulla mano sinistra. E dove la celava? Sotto l'abito celava una bacchetta, nascosta. No, dietro la schiena. Ah, la suora teneva una bacchetta dietro la schiena, colpiva in maniera indifferente. Cioè proprio così. Allora, dopo la seconda, terza volta, io avevo 5 anni e qualche mese. Se ricordi i banchi come erano fatti? Certo, col buco in mezzo per il calamaio. Io ho preso il calamaio e gliel'ho tirato in fronte. Così è diventata tutta nera? È diventata tutta nera. Allora, si è imbestialita. Ferma un attimo, devo leggere il messaggio che mi è arrivato adesso da un ascoltatore. Nicoletti, informati per piacere sull'ideologia gender. I cattolici non sono tutti coglioni, mai detto. Leggi ad esempio qualche articolo di Adinolfi, visto che almeno lui proprio coglione non è, vero? Non commento. Andiamo avanti. Allora, ha chiamato i genitori, tutto quanto, dice questo è un ragazzino impossibile, tutto, c'ha la mano del diavolo, bisogna correggerlo. E io scrivo sempre con la sinistra. Ah già, perché la mano del diavolo, quindi era indemoniato. Io ero indemoniato. E allora? Questa passava e pum, bacchettata. Allora, un giorno mi sono alzato, gli ho dato un calcio in uno stinco, l'ho fatta cadere. Ah, ha picchiato la suora? Sì, l'ho picchiato. E quindi? Sono contento. Ancora ci pensa a distanza di mezzo secolo, sì. Ancora si ricorda? Sì. Vabbè, no, lo dico questo. Io avevo 5 anni, questa qui ce ne aveva 50. Io non ho mai capito perché c'è stata indifferenza totale, nessuno ha pensato a una congiura quando le suore menavano i bambini a scuola, e oggi su questa cosa del genere sembra che stia crollando il mondo. Io penso che sia meglio mettersi la gonna che prendere le bacchettate sulle mani, per estremo paradosso. Giusi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, niente, io ho una mia figlia che la maestra in terza elementare ha cominciato a mettergli lo scotch sulla bocca e sulle mani, non solo a lei ma a un gruppo di bambini. Questa è una maestra, in che anni erano? A mia figlia ha 42 anni. Ah, beh, quindi... parliamo ancora di epoche arcaiche, oggi non potrebbe più farlo una maestra. Ma non poteva neanche all'epoca fare una cosa del genere. Ma allora erano più di manica larga, non c'era No, no, mio papà era un professore, è andato al laboratorio di studi e gli ha detto la cosa, le mamme prima erano d'accordo di andare tutte assieme, poi sempre codarde si sono ritirate, allora ha portato via mia figlia, l'ha messa in un'altra classe, in un'altra scuola. Cosa è successo? Che la maestra gli ha telefonato e ha detto ma proprio te che sei un collega, mi hai fatto questa cosa, vedrai che mi vendicherò. E non sapevamo come, l'abbiamo scoperto dopo, perché la preside della scuola media dove è andata mia figlia era la sua amica di Pianerottolo. È passata al filo spinato abbandonando lo scotch per legare i bambini. E allora l'ha tormentata per 2 anni, il primo anno l'ha bocciata in geografia e religione, e dopo ha cominciato a tormentarla finché un giorno mi sono veramente arrabbiata, sono andata a beccarmi e ho dato una fracassata di botte che è stata diventata buona. Beh, vedo, adesso non vuole essere questa trasmissione un'istigazione alla vendetta personale. Prima l'ascoltatore camenato la povera surina soltanto perché lo prendeva a frustate sulla mano sinistra, mano del diavolo. Lei che ha bastonato una maestra perché, poverina, legava le ragazze con lo scotch e tappava loro la bocca così si abituavano per eventuali sequestri. Non è questa la strada. Sì, è vero, abbiamo istigato il pubblico a riferirci sulle battaglie, in cosa si sentono guerrieri, ma non possiamo naturalmente far passare una sorta di compiacenza alla violenza privata e alla vendetta personale. Silvana, buongiorno. Buongiorno, allora io ho ascoltato fino a questo momento le storie di queste persone. Allora io ho 75 anni, sono andata in una scuola privata dalle suore francescane missionarie di Egitto 3 anni, sono uscita 10 anni e mezzo, quasi 11, per affrontare la scuola. Ho avuto una preparazione eccellente, non ho mai avuto episodi di questo genere, solo una volta la suora mi vide con i capelli sciolti e me li legò. Li leggo lei con le sue mani? Cioè vieni qua che ti leggo i capelli. No, la suora mi legò i capelli. Con cosa? Con elastico? Con un poco di corda, di cosa. Ma con la corda? Ma oltre questo episodio... Cioè ha preso una corda e le legò i capelli? Sì. Oltre questo episodio non è mai accaduto nulla, tant'è vero che i miei figli li ho rimandati tutti e tre lì. Ma io guardi, sennò la gente... Aspetti, pensa che voglia fare una trasmissione... per bieco anticlericalismo. Io mi diverto ad ascoltare le storie, do valore alla sua storia come quelle lì, va benissimo, è chiaro, va bene, che non è dappertutto. Perché contro quella storia, perché io non ho mai avuto una bacchettata sulle mani, non ho mai avuto, per carità, le sue eccellenti, e quando ho portato i miei figli sono state affettosissime, voglio dire, poi dipende, alla scuola media ho avuto degli insegnanti non le dico al superiore, al liceo, però scusi, università. Sì, ma la interrompo, lei non ha fatto nessuna guerra, lei è fortunata, ha vissuto in un momento di pace, in delle osi felici in cui c'era la neutralità, è fuori argomento, mi va bene, sono contento, riequilibra la perfidia che noi attribuiamo alle suore fustigatrici, ma non è sempre così, grazie a Dio. Maria Paola, buongiorno. Sì, buongiorno, a proposito di suore, io sono una signora che è stata 13 anni in un pensionato di suore, quando ero in banca e a metà dei 13 anni ero la numero uno in banca. Mi sono trovata benissimo, una superiora più moderna di casa mia, perché essendo fuori casa, e qui viene fuori un po' il problema della scuola. A 19 anni sono uscita, sono entrata in banca in un pensionato di suore. Ci sono rimasta 13 anni. La banca era delle suore, non ho capito, era una banca di suore? No, io ero in banca ed eravamo tutte ragazze fuori casa, in un pensionato di suore, con una superiora. Ma tutte le bancarie stavano nel pensionato di suore? No, tutte, erano dell'INPS, c'erano dei chirurghi, donne già chirurghe a quei tempi. E tutte ma che anni erano, tutti signore? In pensionato. Che anni erano? 60-70. Erano anni in cui... Ecco, e volevo parlare delle elementari, ho fatto delle elementari che le ricordo gioiosamente. Pensi che in quarta e quinta c'era un maestro che aveva dato uno schiaffo a papà. A papà, suo padre? Sì, perché non era antifascista, ha capito. Vabbè, sta parlando ancora dei tempi troppo lontani. Ecco, l'unica cosa che appunto l'ho scoperto dopo un po' di anni, ma non mi sono sentita. Questo insegnante ogni tanto ci bacchettava le mani, ma faceva bene. Vabbè, era giusto. Eravamo terribili. Infatti, signora, guardi, signora, le bacchettate sane che ha avuto la sua insegnante hanno forgiato la sua rettitudine al punto tale che lei è, ha sopportato questa sorta di cilicio emotivo di stare 13 anni da ragazza, lavorava in banca, era libera, poteva fare quello che voleva, entrare e uscire, ma lei l'ha passata in un convento di suore perché giustamente questo salvaguardava la sua virtù. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. La maggior parte degli studenti italiani non va in gita proprio perché non riesce a trovare professori accompagnatori, perché è il professore accompagnatore che si assume la responsabilità dei ragazzi che accompagna in gita, e quindi è abbastanza comprensibile che se la classe è particolarmente indisciplinata il professore non se la senta di assumersi questi rischi, per cui questo è un ulteriore motivo su cui riflettere per avere una buona condotta in classe. Alcuni ragazzi poi... 800 24 0024, abbiamo iniziato questa trasmissione parlando di Toro Seduto e dei ragazzi guerrieri, e abbiamo miseramente tracimato verso racconti di suore picchiatrici, ma se questo è il trend lo seguo volentieri lo seguo, perché mi adego a quello che è l'interesse delle persone che vogliono dibattere questa mattina. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Chiudi la radio, spenga la radio. Pronto? Sì, spenga la radio però. Sì, già spenta. Allora. Niente, anch'io l'ho avuto la mia amara esperienza con le suore. Questa mattina di questo volete parlare? Va bene, racconti allora. Purtroppo, meno male che ho fatto solo la prima delle suore. Praticamente questa mi aveva preso di mira perché io arrivavo dalla campagna. Mm. Sapevo tutto meno che l'italiano. La nonna, una era veneta, Giseo, dove Seo, e qui là. E l'altra era... piemontese del nord e parlava più francese che E la scuola dov'era? La scuola dov'era collocata invece? A Novara, beh, sempre in Piemonte eravate. Sì, ma il problema è che io l'italiano proprio abituato in cascina non sapevo neanche che cosa fosse. Comunque lei usava un sistema, tutte le volte che consegnavo il compito, che logicamente avevo cannato tutto o quasi, mi diceva: Luigino, vieni caro, vieni. Mi metteva davanti alla lavagna, poi mi prendeva il ciuffo dietro e mi picchiava il cranio, la fronte, direttamente sulla lavagna. Vabbè, sì, è una tecnica tipica, capocciata sulla lavagna, però che gli altri non vedono, è come quando si tira giù la tendina nella camera a gas perché non possono vedere gli ultimi momenti del condannato. Esatto, la portava dietro la lavagna e le sbatteva il capino sulla lavagna. Dopo ormai ero abituato, no? Gli altri sentivano soltanto il compito, questo rumore e le sue urla. Mi mettevo là davanti alla lavagna e ero già pronto, quindi vabbè. Già porgeva il capino, pronto, ce me la sbatta, sorella. Sì, esatto. Fermo Fulvio, sarà lenita la sua ferita fanciullesca da Alberta. Alberta, buongiorno. Buongiorno, sì, io sono andata a scuola dalle suore, mi ricordo di una in particolare che siccome eravamo divisi maschi e femmine, mica erano gli anni del gender, ancora li tenevano separati, chiaro. Sì, e c'era un bambino che non era capace ad allacciarsi le scarpe e l'ha fatto stare una mattinata in ginocchio nella nostra classe di bambine con le scarpe in testa. Altro che Toro Seduto. Spero che ascolti questa trasmissione il direttore scolastico De Angelis. Ci sono stati tempi bui, oggi dovete stare contenti. Alberta ha parlato? Fulvio. Sono qua. Fulvio. Ma io ho fatto 4 anni di collegio da interno, proprio nel profondo bergamasco, al collegio Cardinal Vescoville Angelo Mai. Allora, 4 anni che io mi ricordo molto volentieri. Ma vi vestivano da prete oppure state, diciamo, laici, vestiti normali? No, preti e suore. Ma voi come eravate vestiti voi ragazzi? Laici. Vestiti normalmente. Me lo ricordo come un ottimo periodo, tutto sommato. A parte un prete che quando Don Matteo lo incrociava nei corridoi mi diceva: cosa fai qua, Giovannelli? Mi prendeva la guancia e me la stortava, a parte questo. Vabbè, tipo sì. Ma il ganascino è dolorosissimo, non lascia segni. Sì, però non lascia segni, è scientifico. Fa molto male, ma non lascia segni evidenti. Ecco, la cosa che mi ha lasciato invece il segno a rovescio è stata il fatto che cominciare la mattina a pregare, alla colazione, alla stata dal letto, prima di studiare, prima di mangiare, prima di andare in ricreazione, dopo 4 anni di collegio ho detto, ma la fede cos'è? Vabbè, però è una visione distorta questa, lei tornerà serenamente. Serenamente. No, io rimango credente, sì. Però... Però quando vede una tonaca scappa via, la posso capire, la posso capire. Gaetano, questa è una cosa molto interessante, la testimonianza di Gaetano. Buongiorno Nicoletti, io a 5 anni sono andato anch'io a scuola dalle suore, volevo andare con i grandi, cioè alle mie tempi prendevano a 5 anni i bambini, erano le suore. Le uniche facevano la primina, certo. Esatto, il primino, essendo anch'io mancino, mi hanno legato la mano destra al banco di dietro, alla sedia, e mi hanno obbligato a scrivere con la sinistra, con ogni tanto qualche bacchettata per incentivarmi e sono riuscite nell'intento, è diventato... Sì, ora scrivo, sono rimasto naturalmente mancino, però scrivo con ambedue le mani. Ma quindi ambidestro? Ambidestro. Teoria gender, attenzione a dire queste cose. Fabio, buongiorno. Fabio. Buongiorno, io pure ricordo quando ho fatto la primina, perché anch'io ho iniziato a 5 anni la scuola, e il primo anno era tutto bene, era una suora stupenda, poi mi hanno cambiato la suora, l'insegnante, e mi ricordo che dopo il refettorio ci dovevo mettere al lato del banco, e così mi stavo mettendo a chiacchierare con un mio compagnetto, mi è arrivata una bastonata di un manico di scopa sulla testa, non sapevo da dove fosse venuta, vedevo da distanza questa suora, suor Nivea. Sornivia, come la crema? Tenera, no, sì, infatti. Che mi faceva col dito no, non parlare. E poi da lì. Ma scusi, l'aveva lanciata come un giavellotto il manico della scopa? Beh, come una bacchetta però prolungata. Ah, c'aveva la prolunga, l'aveva colpita a distanza. Beh, si era ingegnata. La candida Sornivia. Lady, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo fare un po' un confronto, perché si è passato da un regime di insegnanti, perché prima avevano un potere proprio assoluto. Ma dove questo? Lei parla in Albania, immagino. Sì. Lei è il nome albanese, sì. Era come un genitore che aveva proprio il potere assoluto. E cosa facevano? Sì. Praticamente quelli che non andavano bene a scuola sì, gli davano le bacchettate, la frutta sulla lavagna, sì, quello che non andava bene. A noi è successo una volta che giocando nel pausa tra le ore si rompe il globo, che quello era importante. Cioè il mappamondo, Lì fu... E qual è la pena per la rottura di un mappamondo? Lì fu proprio la tragedia, nel senso che noi come abbiamo capito, è stata una tragedia. No, leggo l'ultimo sms perché mi fa molto ridere sulle teorie. Nicoletti, ma vaffa, lei e la sua combriccola dei finocchi, della quale Radio 24 è la radio ufficiale. Alla faccia della serenità, state tranquilli. A domani.